Lettera di Osvaldo a Corinna. Voi ricusate di vedermi, voi siete offesa della nostra conferenza di ieri l'altro e vi proponete senza dubbio di non ammettere in avvenire la vostra conversazione che i soli vostri compatrioti e volete espiare verosimilmente il torto che avete avuto di accogliere un uomo di diversa nazione. Nonostante ciò, lungi dal pentirmi di avere parlato con schiettezza in rapporto alle italiane, a voi che nelle mie chimere volevo considerare come un inglese, io avrò il coraggio di dire anche molto più di forza che voi non troverete né felicità né dignità se volete fare la scelta di uno sposo in mezzo alla società che vi circonda. Io non conosco uomo tra gli italiani che possa meritarvi. Non ve n'è uno che con la sua alleanza vi potesse onorare, di qualunque titolo egli vi rivestisse. Gli uomini in Italia valgono assai meno delle donne, perché essi hanno i difetti di queste e per giunta i loro propri. Mi persuaderete voi che sono capaci d'amare tali abitanti del Mezzogiorno che fuggono con tanta smania il dolore e sono tanto determinati a vivere felici? Non avete voi veduto, voi stesso me lo faceste osservare nell'ultimo mese al teatro, un uomo che aveva perduto 8 giorni innanzi sua moglie e una donna che gli diceva di amare? Si vuole qua disimpegnarsi il più presto possibile e dei morti e dell'idea della morte. Le cerimonie dei funerali sono effettuate dai preti, come le cure dell'amore sono osservate dai cavalieri serventi. I riti e la consuetudine hanno prescritto tutto anticipatamente e il rammarico e l'entusiasmo per nulla vi entrano. In breve, e questo soprattutto è quello che distrugge l'amore, gli uomini non ispirano nessun genere di rispetto alle donne e se non possono essere grate della loro sottomissione perché non hanno alcuna fermezza di carattere né alcuna seria occupazione nella vita. Occorre perché l'ordine sociale e la natura si mostrino in tutta la loro bellezza, che l'uomo sia protettore e la donna protetta, ma che questo protettore adori la debolezza di cui è scudo e rispetti la divinità impotente che, come i suoi dei penati, porta la felicità nella sua casa. Qui, al contrario, si direbbe che le donne sono il sultano e gli uomini il serraglio. Gli uomini hanno la dolcezza e l'artificio del carattere delle donne. Un proverbio italiano dice: chi non sa fingere non sa vivere. Non è questo un proverbio da donne? E infatti, in paese dove non c'è né carriera militare né istituzione libera, come potrebbe mai un uomo formarsi alla dignità e alla forza? E si rivolgono pertanto tutto il loro spirito all'abilità. Vivono come giocano una partita di scacchi, dove tutto consiste in un evento fortunato. Ciò che rimane loro delle maniere dell'antichità è qualche cosa di gigantesco nell'espressione e nella magnificenza esteriore, ma accanto a tale grandezza senza base, voi vedete sovente tutto ciò che c'è di più volgare nei gusti e di più miserabilmente negletto nella vita domestica. È questa, Corinna, la nazione che dovete preferire a ogni altra? È questa i cui fragorosi applausi vi sono necessari tanto che ogni altro destino vi sembrerebbe taciturno accanto al rimbombo dei brava che vi hanno profuso? Chi potrebbe lusingarsi di rendervi felice strappandovi da questo tumulto? Voi siete persona inconcepibile, profonda nei vostri sentimenti e superficiale nei vostri gusti, indipendente per l'altezza della vostra anima e schiava nonostante per il bisogno delle distrazioni, capace di amare uno solo, ma che ha bisogno di tutti. Voi siete una maga che turbate e incoraggiate a vicenda, che vi mostrate sublime e che tutto a un tratto sparite dalla regione in cui siete sola per confondervi nella folla. Corinna, Corinna, non si può fare a meno di temervi amandovi. Osvaldo. Corinna nel leggere questa lettera rimase offesa dai pregiudizi maligni che esprimeva Osvaldo contro la sua nazione, ma ella ebbe tuttavia la sorte di congetturare che gli era assai inasprito per la festa da ballo e per la negativa di riceverlo dopo il colloquio della cena. Questo pensiero addolcì un poco l'impressione penosa che le faceva la sua lettera. Ella esitò per qualche tempo, o almeno le parve di esitare, sulla condotta che doveva tenere con lui. Il suo amore la trascinava a rivederlo, ma le era estremamente doloroso che egli potesse immaginarsi che desiderava sposarlo, benché la loro fortuna fosse almeno uguale, e che ella potesse mostrare, manifestando il suo nome, che esso in nulla era inferiore a quello di Lord Nelville. Nulla di meno ciò che vi era di singolare ed indipendente nel genere di vita che ella aveva adottato doveva ispirarle della ripugnanza per il matrimonio, e sicuramente ella ne avrebbe allontanata l'idea se il suo sentimento non l'avesse resa cieca su tutte le pene che avrebbe dovuto soffrire nello sposare un inglese e nell'abbandonare l'Italia. Corinna, non potendo risolversi a rompere con Osvaldo, si volle persuadere che ella d'ora in poi avrebbe potuto vederlo e nascondergli l'amore che sentiva per lui. Con questa intenzione, ella si fece una legge nella sua lettera di rispondere unicamente alle sue ingiuste accuse contro la nazione italiana e di ragionare con lui su tale oggetto, come se fosse il solo che la interessasse. Forse è la migliore maniera con la quale una donna di spirito superiore può ripigliare la sua freddezza o la sua dignità, è quella di restringersi nel pensiero come in un asilo. Corinna a Lord Nelville, il 29 gennaio 1795. Se la vostra lettera, milord, riguardasse unicamente la mia persona, io non cercherei di giustificarmi. Il mio carattere si conosce così facilmente che chi non arrivasse a capirmi da se stesso niente di più mi capirebbe col mezzo della spiegazione che potessi dargli. La riservatezza piena di virtù delle donne inglesi e l'arte piena di grazia delle donne francesi servono spesse volte a nascondere, credetemelo pure, la metà di ciò che si aggira nell'anima delle une e delle altre. E ciò che vi compiacete di chiamare in me magia è un naturale senza soggezione che lascia scorgere qualche volta dei sentimenti diversi e dei pensieri opposti senza darsi la pena di porli d'accordo, poiché tale armonia, quando sussista, è quasi sempre fattizia e la maggior parte dei caratteri veritieri è irregolare. Ma io non voglio parlare di me, bensì della nazione sfortunata che voi attaccate così crudelmente. Sarebbe ella forse la mia affezione per gli amici, ciò che vi ispira così amara malevolenza? Voi mi conoscete troppo per non dover essere geloso, e io non ho certamente l'orgoglio di credere che un tale sentimento vi renda ingiusto fino a tal segno in cui lo siete. Voi dite rapporto agli italiani quel che dicono tutti i forestieri, e cioè che deve, e ciò che deve colpire di primo acchito, ma bisogna inoltrarsi di più per giudicare in questo paese, che è stato tanto grande in diverse epoche, da cui deriva dunque che questa nazione è stata sotto i romani la più bellicosa di tutte, la più gelosa della sua libertà, nelle repubbliche del Medioevo e nel secolo XVI la più illustre per le lettere, per le scienze, per le arti. Non ha forse lei incalzato la gloria sotto tutte le forme? E se adesso ne è rimasta priva, perché non ne accuserete voi la sua situazione politica? Già che in altre circostanze essa si è mostrata così differente da quella che è al presente. Io non so se mi inganni, ma i torti degli italiani non eccitano che un sentimento di pietà per la loro sorte. Gli stranieri di tutti i tempi hanno conquistato e lacerato questo bel paese, oggetto perpetuo della loro ambizione. E gli stranieri rimproverano con amarezza a questa nazione i torti delle nazioni vinte e messe in brani. L'Europa ha ricevuto dagli italiani le arti e le scienze, e ora che ha rivolto contro di quelli i loro proprio doni, essa contrasta sovente ai medesimi l'ultima gloria che sia permessa alle nazioni senza forza militare e senza libertà politica, la gloria cioè delle scienze e delle arti. È vero che i governi fanno il carattere delle nazioni, che nell'Italia medesima voi vedete delle differenze notevoli di costume nei diversi stati che la compongono. I piemontesi, che formano un piccolo corpo di nazione, hanno lo spirito più militare del rimanente dell'Italia. I fiorentini, che hanno posseduto la libertà o dei principi di un carattere liberale, sono illuminati e docili. I veneziani e i genovesi si mostrano capaci di idee politiche perché vi è presso loro un'aristocrazia repubblicana. I milanesi sono più sinceri perché le nazioni del nord vi hanno portato da lungo tempo questo carattere. I napoletani potrebbero facilmente diventare guerrieri poiché essi sono stati riuniti da molti secoli sotto imperfettissimo governo, ma in sostanza sotto un governo proprio. E la nobiltà di Roma, nulla avendo a che fare né militarmente né politicamente, deve essere ignorante e infingarda. allo spirito degli ecclesiastici che hanno una carriera e una occupazione è molto più sviluppato di quello dei nobili. E siccome il governo papale non ammette distinzione di nascita ed è al contrario puramente elettivo nell'ordine del clero, così ne risulta una specie di liberalità, non tanto nelle idee, ma nelle abitudini, che fa di Roma il soggiorno il più gradevole per tutti coloro che non hanno più né l'ambizione né la possibilità di fare qualche comparsa nel mondo. I popoli del Mezzogiorno sono più agevolmente modificati dalle loro istituzioni dei popoli del Nord e si hanno un'indolenza che si riduce ben presto a rassegnazione, e la natura offre loro tanti godimenti che si consolano facilmente della mancanza di quelli che la società rifiuta loro. Vi è certamente molta corruzione in Italia, e con tutto ciò la civilizzazione è molto meno raffinata che negli altri paesi. Si potrebbe quasi trovare qualche cosa di selvaggio fra questo popolo, malgrado l'acutezza del suo spirito. Tale acutezza somiglia a quella del cacciatore nell'arte di sorprendere la sua preda. I popoli indolenti sono facilmente accorti e si hanno un'abitudine di dolcezza che serve loro per dissimulare, quando occorre, anche la loro collera. Accade sempre che si giunge coi modi cui siamo abituati a nascondere una situazione accidentale. Gli italiani hanno della sincerità e della fedeltà nelle relazioni private. L'interesse e l'ambizione esercitano grande dominio su loro, ma mai l'orgoglio o la vanità. Le distinzioni del grado fanno pochissima impressione. Non c'è società, né ridotto, né moda, né alcuno dei piccoli mezzi giornalieri che possa fare effetto partitamente. Quelle sorgenti abituali di dissimulazione e di invidia non esistono tra loro. Quando essi ingannano i loro nemici e i loro competitori, dipende dal fatto che si considerano con loro come in stato di guerra, ma in pace essi hanno naturalezza e ingenuità. Eppure questa ingenuità è la causa dello scandalo di cui vi lagnate. Le donne, sentendo parlare di amore continuamente e vivendo in mezzo alle seduzioni e agli esempi dell'amore, non nascondono i loro sentimenti e portano, per così dire, una sorta di innocenza anche nella galanteria. Esse neppure pensano al ridicolo in cui possano essere messe, specialmente nelle conversazioni. Alcune sono di tale ignoranza che non sanno scrivere e lo confessano pubblicamente, e se fanno rispondere a un biglietto galante dal loro procuratore, in carta del più gran sesto e in stile da supplica. Ma in contraccambio tra quelle che sono istruite ne vedrete talune che sono professore nelle accademie e che danno lezione pubblicamente in toga nera. E se voi vi accorgeste di ridere per questo, vi si risponderebbe che è forse male sapere il greco? C'è forse del male a campare col suo lavoro? Perché ridete voi dunque di una cosa tanto semplice? Finalmente, milord, toccherò il più delicato tasto. Cercherò io di decifrare il perché gli uomini mostrino sovente poco spirito militare. Essi espongono la loro vita per l'amore e per l'odio con la maggiore facilità, e le stilettate date e ricevute per questi motivi non maravigliano né intimidiscono nessuno. Essi non temono la morte quando le passioni naturali comandano di sfidarla, ma sovente, bisogna confessarlo, essi amano più la vita degli interessi politici, che non appartengono loro perché non hanno una patria. Sovente pure l'onore cavalleresco ha poca possanza in mezzo al popolo, in cui l'opinione e la società che lo formano non esistono diversamente. È cosa naturalissima che in tale sconcerto di tutti i poteri pubblici le donne piglino molto di ascendente sugli uomini, e forse esse ne hanno di troppo per rispettarli e ammirarli. La loro condotta, tuttavia, verso di esse è piena di delicatezza e di ossequio. Le virtù domestiche costituiscono in Inghilterra la gloria e la felicità delle donne, ma se vi sono paesi nei quali sussista l'amore fuori dai sacri legami del matrimonio, tra questi paesi quello in cui più di tutti si ha del riguardo per la felicità delle donne è certamente l'Italia. Gli uomini si sono creati una morale sopra dei rapporti estranei alla morale, ma essi sono stati almeno giusti e generosi nell'assegnamento dei doveri. Si sono considerati essi stessi come più colpevoli delle donne, quando rompevano i vincoli dell'amore, perché le donne avevano fatto maggiori sacrifici e perdevano di più. Hanno riflettuto che davanti al tribunale del cuore i più colpevoli sono quelli che fanno più male. Gli uomini hanno il torto solo perché sono duri e le donne lo hanno solo perché sono deboli. La società, che è nello stesso tempo rigorosa e corrotta, vale a dire inesorabile per gli errori, quando si tirano a sé delle sventure, deve essere più austera in rapporto alle donne, ma in un paese dove non c'è società, la bontà naturale ha maggiore influenza. Le idee dell'estimazione e della dignità sono, io ne convengo, molto meno potenti e anche molto meno conosciute in Italia che in qualsivoglia altro paese. La mancanza di società e di pubblica opinione ne è la causa. Ma ad onta di tutto ciò che si è detto della perfidia degli italiani, io sostengo che l'Italia è uno dei paesi del mondo in cui si incontra la maggiore bonarietà. Questa bonarietà è tale in tutto ciò che concerne la vanità che, sebbene questo paese sia quello del quale gli stranieri abbiano detto più male, non ce n'è altro in cui trovino cotanto affettuosa accoglienza. Si rimprovera agli italiani troppa tendenza all'adulazione, ma bisogna altresì convenire che per lo più, non per calcolo, ma per il solo desiderio di piacere, essi profondono le loro dolci espressioni dettate da vera cortesia. Queste espressioni non sono mai smentite dalla condotta abituale della vita. Sarebbero essi talvolta fedeli all'amicizia in circostanze straordinarie se bisognasse affrontare per essa i pericoli e le avversità? Un piccolo numero, ne convengo, un piccolissimo numero ne sarebbe capace, ma questa osservazione non si può applicare solamente all'Italia. Gli italiani hanno una pigrizia orientale nell'abitudine della vita, ma non ci sono uomini più di loro perseveranti e attivi quando siano risvegliati una volta dalle loro passioni. Quelle stesse donne ancora che voi vedete indolenti, quanto le favorite del serraglio, sono capaci tutt'a un tratto delle azioni più energiche. Vi sono dei misteri nel carattere e nell'immaginazione degli italiani e delle italiane, e voi vi ritrovate alternativamente tratti inaspettati di generosità e di amicizia e delle prove tenebrose e terribili di odio e vendetta. Non c'è qua l'ombra dell'emulazione. La vita non è altro che un sonno vaneggiatore sotto un bel cielo, ma dirigete questi uomini a uno scopo e voi li vedrete in 6 mesi imparare tutto e concepire tutto. Lo stesso è per le donne. Perché nel frattempo esse dovrebbero istruirsi quando la maggior parte degli uomini non le intenderebbe? Isolerebbero il loro cuore, coltivando lo spirito. Ma queste medesime donne diverrebbero ben presto degne di uomo sublime, se quest'uomo sublime fosse l'oggetto della loro tenerezza. Tutto dorme in questo luogo. Ma in paese dove i grandi interessi sono addormentati, la quiete e la noncuranza sono cose più nobili di vana agitazione per bagatelle. Le lettere stesse languiscono laddove non si rinnovano i pensieri mediante l'azione forte e variata della vita. Ma in qual paese, però, si è dimostrata mai maggiore ammirazione per la letteratura e per le belle arti? La storia ci ammaestra che i papi, i principi e i popoli hanno reso in ogni tempo ai pittori, ai poeti, agli scrittori illustri gli omaggi i più luminosi. Questo entusiasmo per i talenti è, io devo confessarlo, milord, uno dei principali motivi che mi legano a questo paese. Non vi si trova quell'immaginazione snervata, quello spirito pusillanime, né quella mediocrità dispotica che sanno altrove così bene tormentare o soffocare il genio naturale. Un'idea, un sentimento, un'espressione felice prendono fuoco, per così dire, tra gli uditori. Il talento, per la ragione appunto che ha qui il primo posto, eccita molta invidia. Pergolesi è stato assassinato per il suo Stabat. Giorgione si armava di una corazza quando era costretto a dipingere in un luogo pubblico, ma la gelosia violenta che ispira il talento fra noi è quella che fa nascere altrove l'autorità. Tale gelosia non avvilisce il soggetto. Può essa odiare, proscrivere, uccidere e nulla di meno mischiata sempre col fanatismo dell'ammirazione. Risveglia sempre il genio nell'atto anche di perseguitarlo. E finalmente, quando si scorge tanta vivacità in un cerchio così ristretto, in mezzo a tanti ostacoli e a tante schiavitù di ogni genere, non si può, a meno, per quanto mi sembra, di non prendere vivo interesse per questo popolo che respira avidamente la poca aria che l'immaginazione fa penetrare attraverso i confini che lo circoscrivono. Questi confini sono tali, non posso negarlo, che gli uomini adesso acquistano raramente in Italia quella dignità e quell'alterezza che distinguono le nazioni libere e guerriere. Confesserò pure, milord, se lo volete, che il carattere di queste nazioni potrebbe ispirare alle donne assai più entusiasmo e amore. Ma non sarebbe anche possibile che uomo intrepido, nobile, austero, riunisse in sé tutte le qualità che fanno amare senza possedere quelle che promettono la felicità? Corinna. Capitolo quarto. La lettera di Corinna fece pentire una seconda volta Osvaldo di avere potuto pensare di staccarsi da lei. La spiritosa dignità e la sublime dolcezza con cui ella ribatteva le dure parole che si era permesse lui lo commossero e lo riempirono di ammirazione. Una superiorità così grande, così semplice, così candida gli parve al di sopra di tutte le regole ordinarie. Egli si convinceva sempre, bensì, che Corinna non era la donna debole, timida, dubbiosa di tutto, fuorché dei suoi doveri e dei suoi sentimenti che egli aveva eletto nella sua immaginazione per compagna della sua vita. E il ricordo di Lucilla, tale quale l'aveva veduta nell'età di 12 anni, si accordava meglio con quest'idea. Ma si poteva paragonare nulla a Corinna? Le leggi, le regole comuni si potevano mai applicare a persona che radunava in sé tante qualità diverse, collegate insieme dal genio e dalla sensibilità? Corinna era un miracolo della natura e questo miracolo non si faceva in favore di Osvaldo quando poteva lusingarsi di interessare siffatta donna? Ma qual era il suo nome? Qual era mai stato il suo destino? Quali sarebbero i suoi progetti se egli le dichiarasse l'intenzione di unirsi a lei? Tutto era ancora nell'oscurità e sebbene l'entusiasmo che Osvaldo risentiva per Corinna gli persuadesse che era determinato a sposarla, spesse volte tuttavia l'idea che la vita di Corinna non fosse stata affatto irreprensibile e che un tale matrimonio sarebbe stato sicuramente condannato da suo padre, sconcertava di nuovo tutta la sua anima e la gettava nella perplessità la più penosa. Egli non era tanto abbattuto dal dolore quanto nel tempo in cui non conosceva Corinna, ma non sentiva più quella specie di calma che può esistere anche in mezzo al pentimento, quando l'intera vita è consacrata alla espiazione di un grande fallo. Egli non temeva una volta di abbandonarsi alle sue reminiscenze, qualunque fosse la loro amarezza. Al presente, invece, paventava le lunghe e profonde meditazioni che egli avrebbero manifestato ciò che si aggirava nel fondo della sua anima. Si preparava, nonostante, a fare visita a Corinna per ringraziarla della sua lettera e per ottenere perdono di quella che le aveva scritto, allorché vide entrare nella sua camera il signor Edgermond, parente della giovinetta Lucilla. Era questo un gentiluomo inglese che aveva quasi sempre vissuto nel Principato di Galles, dove possedeva una terra. Aveva i principi e i pregiudizi che servono a conservare in ogni paese le cose come stanno, e ciò è un bene quando le cose sono buone. Quanto la ragione umana lo permette, allora gli uomini come il signor Edgermond, vale a dire i partigiani dell'ordine stabilito, benché fortemente e anche ostinatamente attaccati alle loro abitudini e alla loro maniera di vedere, debbono essere considerati come spiriti illuminati e ragionevoli. Lord Nelville si commosse nel sentirsi annunciare la visita del signore Edgermond. Gli sembrò che gli si presentassero tutte in una volta le sue memorie. Ma ben presto si immaginò che Lady Edgermond avesse spedito questo suo parente per fargli dei rimproveri e che ella volesse in tale modo molestare la sua indipendenza. Questo pensiero gli restituì tutta la sua costanza e ricevette il signor Edgermond con estrema freddezza. Egli aveva tanto più torto ad accoglierlo così, in tale modo, in quanto che il signor Edgermond non aveva il minimo progetto che potesse concernere Lord Nelvil. Egli attraversava l'Italia per la sua salute, facendo molto esercizio, cacciando e bevendo alla salute del re Giorgio e della vecchia Inghilterra. Era il più onesto uomo del mondo e aveva anche molto più spirito e istruzione di quello che lo potessero far credere le sue abitudini. Era prima di tutto inglese, non solamente come doveva esserlo, ma come anche si sarebbe potuto desiderare che non lo fosse. Seguiva in tutti i paesi i costumi del suo, non viveva che con inglesi e non conversava mai con gli stranieri, non per disprezzo, ma per una specie di ripugnanza a parlare le lingue forestiere e di timidezza, anche nell'età di 50 anni, che gli rendeva difficoltosissimo il fare nuove conoscenze. Oh, io godo all'estremo di rivedervi, egli disse a Lord Nelvil. Vado a Napoli tra 15 giorni. Vi ritroverò? Lo desidererei perché ho poco tempo da trattenermi in Italia, dovendo imbarcarsi sollecitamente il mio reggimento. Il vostro reggimento? Ripeté Lord Nelvil. E diventò rosso come se si fosse dimenticato che aveva il congedo per un anno e che il suo reggimento non doveva essere impiegato prima di questa epoca. Ma egli arrossì pensando che, che Corinna potrebbe forse fargli dimenticare anche il suo dovere. Il vostro reggimento, continuò il signore Edgermond, non sarà messo in attività così presto. Rimettetevi dunque qua in salute senza darvi la minima inquietudine. Io ho veduto prima di partire la mia giovine cugina, per la quale avete dell'interesse, ella è sempre più vezzosa e tra un anno, quando ritornerete, non dubito che non sia la più bella donna dell'Inghilterra. Lord Nelvil stette tranquillo e il signor Edgermond rimase parimenti in silenzio. Si dissero poi alcune parole in maniera molto laconica, quantunque affettuosa, e il signor Edgermond era sul punto di uscire, quando, tornando indietro, gli disse: «A proposito, milord, voi potete farmi un piacere. Mi hanno detto che conoscete la celebre Corinna e io, benché non ami in genere di fare nuove conoscenze, sono curiosissimo di conoscerla. Chiederò a Corinna la permissione di condurvi da lei, già che voi lo gradite», rispose Osvaldo. «Oh, fate in tutti i modi, io vi prego», rispose il signor Edgermond, «che io la possa vedere in giorni in cui improvviserà, canterà e ballerà la nostra presenza». Corinna, soggiunse Osvaldo, non fa mostra così dei suoi talenti agli stranieri. È una donna uguale a voi e a me, sotto qualche rapporto. Oh, perdonatemi di grazia allo sbaglio, replicò il signor Edgermond. Siccome io non la conoscevo se non per il nome di Corinna, e di 26 anni ella vive affatto sola, senza nessuno della sua famiglia, così io credevo che sussistesse col frutto dei suoi talenti e afferrasse volentieri l'occasione di farsi conoscere. Le sue ricchezze sono interamente indipendenti, riprese Nelvil con la maggior vivacità, e la sua anima lo è ancora d'avvantaggio. Il signor Edgermond finì sul momento di parlare relativamente a Corinna e si pentì di averla nominata quando si accorse che questo soggetto interessava Osvaldo. Gli inglesi sono gli uomini del mondo che hanno più di chicchessia circospezione e riguardi rapporto a tutto ciò che è la conseguenza di una vera affezione. Il signor Edgermond partì, Lord Nelvil rimase solo e non poté fare a meno di esclamare nel suo trasporto: «Bisogna che io sposi Corinna, bisogna che io sia suo protettore, onde d'ora in poi nessuno possa cadere in simile sbaglio. Io le darò quel poco che le posso dare, un grado, un nome, mentre dal canto suo mi colmerà di tutti quei beni che ella sola può concedere sulla terra».